che alle tue mani di comprare. Le file parallele di prodotti costruiscono un'inutile illusione di decidere per te. Nessuno mette in dubbio la tua facoltà di scegliere. Qualcuno che continua a dirti che sei al centro, sei tu l'unico sole e tutto il resto in movimento. Immobile sul letto d'ospedale, vedi scendere le peva, goccia rapida, sedanti la realtà, la tua dose quotidiana di tranquillità. Senti di avere una cifra sulla schiena, è solo il codice del tuo padrone, strappati quella dalla schiena e salta fuori dalla confezione. Gli occhi nello specchio cercano di riconoscere quel volto sepolto sotto a maschere tenute per ricordo. Somiglia al risultato di un intenso atto chirurgico che ha generato un essere diverso da chi sei. Non sai più che significa tagliarsi e sanguinare, non sai più che si prova ad aver sete, avere fame. Hai metabolizzato i tuoi ricordi più segreti per far crescere quell'essere diverso da chi sei. La tua vita chiuso in una confezione, ogni tuo gesto indotto da una facile canzone. I polpastrelli del padrone scorrono le vite sotto plastica, fedeli ad una sola verità, quella di chi cerca di acquistare la sua libertà. Senti di avere una cifra sulla schiena, è solo il codice del tuo padrone, strappati quella cifra dalla schiena e salta fuori dalla confezione. Gli occhi nello specchio cercano di riconoscere quel volto sepolto sotto a maschera e tenute per ricordo. Somiglia al risultato di un intenso atto chirurgico che ha generato un essere diverso da chi sei. Non sai più che significa tagliarsi e sanguinare, non sai più che si prova ad aver sete, avere fame. Hai metabolizzato i tuoi ricordi più segreti per far crescere quell'essere diverso da chi sei. Avere una cifra sulla schiena è solo il codice del tuo padrone, strappati quella cifra dalla schiena e salta fuori dalla confezione. Gli occhi nello specchio cercano di riconoscere quel volto sepolto sotto la maschera e tenute per ricordo. Somiglia al risultato di un intenso atto chirurgico che ha generato un essere diverso da chi sei. Non sai più che significa tagliarsi e sanguinare, non sai più che si prova ad aver sede, avere fame. Hai metabolizzato i tuoi ricordi più segreti per far crescere